qualcosa non ancora in questa vita che va, eppure ho avuto tutto e già. La musica è importante, mi fa star bene con me, vivere e sognare, che altro c'è? Ma c'è qualcosa che forse mi manca, ed è quel che ho dato a te, lo sai. Di vero amore non ne ho mai abbastanza, ed ora so cos'è. Ti cerco ancora, adesso come allora, come ogni uomo cerca la felicità. Ti cerco ancora, tra la cucina e le lenzuola, di questa casa così vuota per metà. Posso fare in questa grande città, cosa c'è che ancora non va? C'è che non ti trovo, giro vagando qua e là, forse se mi fermo chissà. Ma quante strade ho preso e quante partenze a gran velocità, perché quante canzoni ho scritto nelle mie stanze e sono rimaste là. Ti cerco ancora, adesso come allora, come ogni uomo cerca la felicità. Ti cerco ancora, tra la cucina e le lenzuola, di questa casa così vuota per metà, aspettando chi tra poco arriva. Casa così vuota.